ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge L'edera di Grazia Deledda. Settima puntata. Il giorno dopo gli ospiti partirono e anche il servo dovette andare sulla montagna per ricondurre il cavallo di Paolo. Passata la festa, la vita in casa De Cherchi riprese il solito corso monotono e triste. I due nonni andavano in chiesa, poi si trattenevano a lungo coi loro vecchi amici, seduti sulle panche di pietra davanti alla porta del municipio. Di sera invece sedevano davanti alla porta di casa e qualche volta Prete Virtis teneva loro compagnia. Paolo aveva anche lui i suoi amici, i suoi affari, i suoi intrighi, e quando stava in paese ritornava a casa solo a mezzogiorno e alla sera. E le due donne lavoravano e donna Rachele pregava continuamente. A tavola gli uomini parlavano male del prossimo e raramente si occupavano dei loro affari, eppure questi affari andavano malissimo. 3 giorni dopo la festa, il messo, che funzionava anche da usciere, notificò ai De Cherchi gli atti per la prima asta della casa e della tanca. Ancora 2 settimane e tutto sarebbe andato in malora. I nonni e donna Rachele non sembravano tuttavia molto inquieti. Aspettavano forse l'intervento della Divina Provvidenza o speravano che Paolo trovasse i denari. Anche lui del resto sperava ancora. Ballore Spanu gli aveva detto prima di partire: «Io sono ancora come un figlio di famiglia, tu lo sai, non posso disporre di un centesimo. Ma se tu vieni al mio paese, posso presentarti alla sorella del parroco, una vecchia riccona che senza dubbio ti potrà prestare qualche migliaio di lire. Fra 8 giorni anche noi avremo la festa. Farai bene a venire». Egli era deciso di tentare ancora questo passo e se non gli riusciva, non so perché, disse ad Annessa la sera prima della partenza, ma son certo che troverò. Non tornerò a casa senza i denari, piuttosto mi uccido. Non era la prima volta che egli minacciava di suicidarsi, ma Annessa non si era mai tanto spaventata. Egli partì. Anche Gantina era partito per la foresta di Lula, dove sarebbe rimasto fino al tempo delle seminagioni. Il vecchio asmatico volle confessarsi. Prete Virdis rimase lungamente con lui e quando uscì dalla camera e sedette vicino alla porta assieme coi due nonni, Annessa notò in lui un'insolita letizia. Prete Virdis è allegro, ella disse a donna Rachele, deve aver convinto zio Zuo ad aiutarci. Dio lo voglia, sospirò l'altra, farei un pellegrinaggio a piedi fino alla Madonna di Gonare. Ma per quanto Annessa ascoltasse, non sentì il prete dare ai vecchi la buona notizia. Egli chiamò Rosa e le fece raccontare la storia del signore morto e discusse a lungo con lei circa i particolari di questa storia. Poi chiacchierò con Siu Cosimo e Don Simone a proposito di Santus, il pastore accusato di parricidio, e sostenne l'innocenza del disgraziato padre. È partito ancora, ha saputo che il figlio si trova in un ovile vicino ad Ozieri. Sarebbe il caso di appiccarlo davvero se lo trova, disse Siu Cosimo con insolita asprezza. Prete Virdis cominciò a sbuffare, a gesticolare, scandolezzato. Cosimo Damiano, che dici, che dici? Sono parole d'un cristiano le tue. E che diventi una bestia feroce adesso? Allora Rosa raccontò un sogno terribile avuto la notte prima. C'era un lupo lungo, lungo, con una codina piccola, piccola, e correva dietro un'altra bestia feroce in un deserto. Un bel momento apparve un uomo con una canna e uno spiedo. Oh, che sogno, Dio mio, disse Siu Cosimo facendo gesti di spavento. Ho paura io. Rosa cominciò a ridere, poi diventò seria e aprì le manine. Ehi, non aver paura, è un sogno. E poi l'uomo con lo spiedo, l'uomo corse, corse, c'era vicino un altro deserto, poi un altro ancora. Insomma, ce n'era una provvista di deserti, esclamò Prete Virdis. «Ascoltate, ascoltate», disse Rosa con impazienza. E i tre vecchi stettero attenti alle sue chiacchiere fantastiche, mentre nell'andito Annessa e Donna Rachele sognavano. La prima, aspettando con tragica attesa un momento di pace e di speranza, e la seconda pregando invano un Dio che non si commuoveva mai. Paolo era partito la mattina all'alba. Da molti anni egli non faceva altro che viaggiare così, in cerca di denari, come il cavaliere antico in cerca di tesori. Un po' di sangue di cavaliere spagnolo scorreva certo nelle sue vene di nobile spiantato. I tempi sono mutati, però. Non si trovano più tesori tra le rocce, né gente pronta ad aprire la borsa. Tuttavia, Don Paolo de Cherchi camminava e sperava di arrivare finalmente in un luogo abitato da persone meno sordide e avare degli strozzini coi quali aveva sempre avuto a che fare. Sperava e quasi era certo di trovar finalmente un po' di fortuna. «La sorella del parroco è una donna di coscienza», pensava, «mi darà i soldi e pretenderà un interesse modesto. Così potremo saldare il debito verso la banca e poi col tempo Ziu Zhu ammorrà e aggiusteremo per benino i nostri affari». E va, e va. D'un tratto il suo piccolo cavallo paio, alla cui sella stava legata la bisaccia a fiori bianchi e rossi che pareva ritagliata da un vecchio razzo, si fermò e sollevò la testa, fine e nervosa. Un sentiero s'apriva di là da un muricciolo a secco, a destra dello stradale polveroso e maltenuto. Ma due macchie di rovi rosseggianti di more acerbe ne chiudevano quasi completamente il varco. «Tu hai ragione», disse a voce alta Paolo, accarezzando la testa dell'intelligente bestia. «È meglio passare di qui. Il sentiero è brutto, ma c'è meno polvere e più ombra». E lasciò andare il cavallo che passò cautamente tra le due macchie. Il sentiero, mal tracciato, serpeggiava lungo i fianchi della grande vallata. La luce roseo-aranciata dell'aurora illuminava dolcemente il paesaggio. Un paesaggio primordiale, quasi ancora vergine di orme umane. Paolo sentiva la poesia del mattino e la bellezza del luogo. Da molto tempo non era stato così allegro e felice. Gli parve d'essere tornato adolescente quando partiva di casa, allegro e spensierato come un uccello, e correva in cerca di piacere, ignaro dell'avvenire. A momenti si metteva a cantare e la sua voce, fresca e sottile come quella di una donna, risuonava nel silenzio del sentiero. E il cavallo scuoteva un'orecchia, quasi l'infastidisse l'insolita gaiezza del padrone. Ma Paolo lo spronava e continuava a canticchiare. Sì, era allegro. Il ricordo di Annessa, la speranza di trovare il denaro, la bellezza del mattino lo eccitavano piacevolmente. Al diavolo i tristi ricordi e le tristi figure, e specialmente quella di Ziu Zhua e quella del messo con le sue cartacce. E va, e va. Scese e risalì tutta la valle. Attraverso un piccolo altipiano arrivò in un villaggio. Si fermò in una locanda per dar da mangiare al cavallo. Era sua intenzione di ripartire subito, ma una donna lo riconobbe e corse da Pietro Corbu, un ricco proprietario del luogo, per avvertirlo che Don Paolo de Cherchi era sceso nell'osteria di Zana, la vedova del brigadiere. Don Peo Corbu corse allora dalla vedova Zana e appena vide Paolo lo caricò di improperi perché gli aveva fatto il torto di non recarsi subito a casa sua. «E che c'è la peste a casa mia? Da quando in qua Paolo de Cherchi va all'osteria invece d'andare in casa d'amici?» Paolo aveva già domandato denari in prestito a Don Peo, che naturalmente gliel'aveva negati. Egli domandava denari a tutti i suoi conoscenti, ma non ripeteva la domanda dopo un rifiuto e serbava rancore quando non li otteneva. Tuttavia finse di vedere Don Peo con piacere, gli fece mille complimenti ma non volle seguirlo. «Ho fretta», disse, «mi fermo solo un momento, vado alla festa di Sant'Isidoro». La festa è post domani, tu resterai qui tutta la giornata di oggi. Parola di Peu Corbu. Non giurare, non resto, replicò Paolo. Invece rimase. Don Peu era uno di quei nobili sardi che, se occorre, non sdegnano di lavorare la terra, ma che per lo più vivono oziosi in attesa di un amico, di un ospite col quale bere e chiacchierare lungamente. Afferrò Paolo come una preda. Lo portò in giro per il paese d'osteria in osteria. Bevettero molto entrambi e Paolo continuò a mostrarsi allegro e cominciò a raccontare molte fandonie. Disse che i suoi affari andavano benissimo, che il vecchio asmatico gli aveva consegnato le sue cartelle perché se ne servisse a suo piacere. «Vedi?» disse guardandosi il vestito di stoffa inglese finissima ma goffamente tagliato. «Questo vestito me lo ha regalato lui, Ziu Zua, cioè mi ha regalato 300 lire dicendomi di comprarmi un vestito». «Avete fatto molto bene a prendervi quell'uomo in casa», disse Don Peu palpando la stoffa della giacca. «Dopotutto però anche voi gli volete bene. Se capitava in altra famiglia lo ammazzavano». «Zana, porta un'altra bottiglia di quel diavoletto di moscato». Zana, una bella vedova dai grandi occhi nerissimi, lasciò il banco della sua botteguccia, nella quale s'ammucchiavano i generi più disparati, ed entrò nella piccola retrobottega dove s'erano rifugiati due nobili amici. Questa retrobottega, che riceveva luce da un finestrino praticato sul tetto di canne, serviva anche da sala da pranzo. C'era una tavola apparecchiata con un canestro ricolmo di quel caratteristico pane sardo detto carta di musica e un intero formaggio marcio da un buco del quale scappavano saltellando i piccoli vermi bianchi che sembravano molto allegri e birichini. Sulle pareti tinte di rosso non mancavano candelari e immagini sacre. Una fotografia ingrandita riproduceva, esagerandola, la figura di un carabiniere grasso e pacifico che sembrava un prete travestito da brigadiere. «Zana, occhi di stella», disse Don Peu mentre la vedova, seria e compassata, versava da bere. «Questo nobile qui, vedi, questo cavaliere, è vedovo e cerca conforto. Anche tu, mi dissero, cerchi conforto. Non potreste confortarvi a vicenda?» «Don Peu, matto», rispose la vedova con sussiego, «e se non fosse per rispetto all'ospite le risponderei male». «Lascialo dire, vedovella», pregò Paolo. La vedova tuttavia guardò il vedovo. Egli la guardava già. Entrambi avevano bellissimi occhi. E gli occhi belli sono fatti per guardarsi, anche se hanno già versato molte lacrime sulla tomba di persone care. Zana si trattenne ancora un po' coi suoi avventori, poi tornò nella botteguccia dove un bambino domandava un soldo di lucignoli. Paolo, non sapeva perché, era diventato triste. Fino a quel momento s'era come suggestionata con le sue vanterie e gli era parso che realmente i suoi affari andassero bene e che le 100 lire che aveva in tasca non gliele avesse prestate quel goffo e semplice sant'uomo di Prete Virtis. Ma nell'ombra che si addensava nella piccola retrobottega rossa, egli rivedeva come in sogno certe figure lugubri. Il viso del messo, nero e selvaggio, balzava dietro la figura cadaverica del vecchio asmatico. «È ancora una bella donnetta», disse Don Peu accennando alla vedova, «ed ha anche dei soldi, dicono». «E dicono, io non affermo nulla, parola di Don Peu, non so nulla, ma dicono». «Bevi dunque, Paolo de Cherchi, a che pensi?» «Non bevo più. Che dicono dunque?» «Tu devi bere, parola di Don Peu. Ti preme sapere cosa dicono?» «Non si può dire qui. C'è il brigadiere che ci ascolta». «Addio!» Don Peu fece un cenno di addio alla fotografia e Paolo bevette. Il moscato della vedova del brigadiere fece ancora sparire la figura dell'usciere. «Cosa dicono? Cosa dicono, Peu?» Don Peu abbassò la voce e raccontò salaci storielle sul conto di Zana. Ogni tanto sollevava gli occhi maliziosi e guardava il viso bonario del brigadiere morto che, nella penombra, pareva affacciarsi da un mondo lontano per ascoltare con indulgenza le avventure della sua vedova. Ed anche Paolo lo guardava e rideva, dimenticandosi che fra 8 giorni la banca agricola avrebbe inesorabilmente messo all'asta la vecchia casa e l'ultima tanca della famiglia De Cherchi. L'indomani all'alba ripartì per il paese di Ballore. Il tempo s'era improvvisamente rinfrescato, sembrava di autunno. Egli non si sentiva più allegro come il giorno prima. La sbornia gli aveva lasciato la bocca acre e la gola arida. Ricordava le 2 ore passate nel retrobottega della vedova come un sogno eccitante. Il vino, le storielle dell'amico Zana, che ogni tanto entrava e con qualche scusa si tratteneva presso la tavola, lo avevano reso folle e incosciente, come nei beati tempi della sua prima giovinezza. Nonostante le proteste di Don Peu, egli aveva voluto pagare una bottiglia tirando fuori un marengo, e poiché la vedova non aveva abbastanza spiccioli per il resto, egli aveva detto: «Bene, mi darai il resto quando ripasserò fra 3 giorni». Zana voleva fargli credito, Don Peu voleva prestargli gli spiccioli. Egli finse di stizzirsi. L'amico credette che egli facesse lo splendido per cattivarsi l'animo di Zana e guardò ridendo la fotografia. In viaggio Paolo ricordava la figura alta e bella della vedova, il suo viso roseo, le labbra voluttuose. Ma pensava anche alla piccola Annessa, all'edera tenace e soffocante della quale egli solo conosceva gli abbracci e dalla quale sentiva di non potersi liberare mai più. Zana è bella, ma fosse anche una donna onesta, non si potrebbe amare a lungo, pensava. Annessa è un tesoro nascosto, inesauribile. Ogni suo bacio mi sembra il primo. Egli non diceva a se stesso che il segreto amoroso di Annessa stava tutto nella passione tragica che egli le ispirava. Non lo diceva, ma lo sentiva, e si lasciava prendere e avvolgere tutto da questa passione come il ramo dell'edera. Più che amare, si lasciava amare, e senza essere deliberatamente infedele, guardava e desiderava le altre donne e si lasciava prendere da loro con piacere. Così, senza dimenticare Annessa, ma pensando alla bella vedova, arrivò al villaggio. Grandi nuvole rosee coprivano il sole. Una mite luminosità adorava le colline coperte di stoppie, di là delle quali sorgeva un monte calcareo che pareva di marmo rosa. Piccole vacche nere s'abbeveravano all'esile ruscello e le figure dei pastori vestiti di rosso e di nero si disegnavano vivamente sul giallo della collina. Ma all'avvicinarsi del paesetto tutto diventava triste. La strada polverosa, l'aria irrespirabile per l'odore delle immondezze. La chiesetta precedeva di un centinaio di metri il paese e sorgeva in mezzo a un campo arido, sparso di cumuli di pietre, di rocce sovrapposte, di massi che formavano circoli, coni, piramidi. Pareva che un popolo primitivo fosse passato in quel campo, tentando costruzioni che aveva poi abbandonato incomplete. Tutto era silenzio e desolazione. Le zampe del cavallo affondavano nella polvere e nelle immondezze. Casupole di pietra, fabbricate sulla roccia, si accumulavano intorno a qualche costruzione nuova. Donne scalze e in cuffia, bambini laceri, ragazzetti seminudi, tutto un popolo che pareva sbucato da un sottosuolo lurido, buio, animava la strada polverosa. Tutti sussurravano nel vedere Don Paolo De Cherchi che distribuiva saluti dall'alto del suo cavallo. Nel passare davanti ad una casa antica, meno povera delle altre, egli si irrigidì, fece caracollare il cavallo e guardò le finestruole munite di inferriata. In quella casetta abitava la sorella del rettore, una vecchia molto ricca, la quale appunto doveva prestare i denari al cavaliere spiantato. Ma nessuno apparve alla finestra ed egli passò oltre. Il suo amico abitava in fondo alla straducola, in una casetta costruita sopra la roccia, in fondo ad un cortile aperto. Ballore Spanu era assente, ma la sua famiglia, composta della madre e di 7 sorelle nubili, la più giovane delle quali aveva passato la trentina, accolse l'ospite con vive manifestazioni di simpatia. «Ballora in campagna», disse la madre, una vecchia piccola e grossa col viso giallognolo quasi completamente nascosto da una benda nera. «C'è un incendio in un bosco vicino alle nostre tanche e Ballore mio è andato per aiutare a smorzarlo. Ma tornerà presto, verso sera. E i suoi parenti come stanno, Don Paolo e Donna Rachele? Ricordo ancora quando ella venne alla nostra festa. Era sposa, sembrava un garofano, tanto era bella». Le 7 zitelle s'affollavano intorno a Paolo. E chi gli serviva il caffè? Chi gli porgeva il catino per lavarsi? Si rassomigliavano tutte in modo sorprendente. Piccole, grosse, col viso grande, giallognolo e folte sopracciglia nere riunite sopra il naso aquilino. Elisabetta Piccolomini ha letto L'Edera di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.